diciamo che sì, è un tanto piccolo spot creato spot da della nostra Avengers. Vita col bambù che è diventato poi destinato proprio leggenda, a... ma sì. Il nostro modo Centocelle Avengers di interpretare l'horror esatto, se vogliamo. Prego maestro. Amore mio, siamo così arrivati. Una casa. Ecco, apri gli occhi. Un paradiso. Oh mio Dio, è bellissimo, un sogno. Che bello, amore. Mamma. Dove ricominciare? Lei è il custode qui? Mamma, posso andare a vedere le piante? Mi raccomando, non allontanarti, amore mio. Mi occupo di questo giardino da più di 20 anni. Ma non tutto è come sembra. Candy! Ho visto qualcuno alla finestra. Torna a dormire, tesoro. Un oscuro segreto. Che cos'è? Candy, tu chi sei? Ma no, è soltanto il vento. Candy! È sparita. L'orrore viene dal basso. Candy! Queste impronte non somigliano a nulla di già conosciuto. È solo un grafo. Chi ha tolto la corrente? Antiche genie vegetali. C'è qualcuno che bussa al vetro. La composizione chimica di questa pianta indica che le radici erano già presenti mille anni. Sto mutando! The Bamboo. Amore mio, dove sei? Fuggite! Shock! La casa è stata costruita su un antico cimitero inca. Dobbiamo fuggire! Candy, dobbiamo trovare un posto dove nasconderci! Ci sto pensando! Come possono toglierla loro? Sono bestie! Non sbrollate il corridoio con detecta, presto! Ascoltami! Troverà! Nascondi. Prendi la bambina e scappa! Mamma! Papà! Che cos'è? The Bamboo. Dal 18 ottobre su Radio Forte. Amore, la stampante si è inceppata. Il nord. Amore, la stampante si è inceppata. Dove andremo adesso? Del nerd. Oh mio Dio! L'ha masterizzato. Dove andremo adesso? I paladini della giustizia. Oh mio Dio! Battono le inesattezze del mondo. Vedo una stella. Leggi le istruzioni. Una stella polare. Vedi una stella. Un'indicazione. Te l'ho messa sulla scrivania. Ma qui non c'è niente. Dove andare? Dove andremo adesso? Cosa fare? Chi essere? Il nord del nerd. Da novembre su Radio Forte. Centocelle Avengers. Incredibile. Incredibile su Centocelle Avengers. Radio Forte si autolanciano le rubriche. Novembre passato, non novembre futuro. Oggi lo sentite il nord. Avete riconosciuto la bambina? Lai. Beh, ragazzi, direi che è il momento per la sigla. Il pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte. Centocelle Avengers, c'è una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd. Nord del Nerd. Nord del Nerd. Su Centocelle Avengers. Quella che cammini. No, non questo sottofondo, questa era la puntata precedente. Ah, dobbiamo parlare di Amadeus? 10 puntate fa. Per caso? Mi rigioco Amadeus. Ma Amadeus chi, scusate. E niente. Ed eccolo sempre. Che arriva, lo sentite? Buonasera, piccoli nerd. Avete paura? Ansia? Ogni volta che sento le note della bellissima Falling, pezzo di Julie Cruz, mi assale l'inquietudine del mistero di Laura Palmer, ritrovata morta in un sacco di plastica, e dei personaggi di Twin Peaks che cercano di rispondere alla domanda che ha tenuto col fiero sospeso un'intera generazione. Dov'è finita Carmen Sandiego? Mamma no, mia. No, aspetta, non era questa, mi sa. E qual era la domanda? Che ha ucciso? Laura Palmer. Laura Palmer. I segreti di Twin Peaks è una serie del 1990 di David Lynch e Mark Frost, composta da due serie storiche ed un seguito realizzato molto più tardi, ben 25 anni dopo, nel 2017, e ambientata proprio 25 anni dopo i fatti relativi alla morte della giovane Laura. La serie è ambientata nella fittizia cittadina piemontana di Twin Peaks, situata nello stato di Washington, dove si consuma l'omicidio misterioso di Laura Palmer e le indagini sul caso da parte dell'agente speciale Dale Cooper dell'FBI, che fanno affiorare il lato oscuro del luogo e dei suoi abitanti. Con uno stile bizzarro che oscilla dalla soap opera alla detective story e fino all'horror, Twin Peaks è stato un vero e proprio fenomeno culturale che ha coinvolto migliaia di spettatori che guardavano la loro puntata settimanale per poi farne argomento con amici e parenti alla ricerca della verità, non del tutto scontata e complicata da scene sempre più ermetiche e oniriche. Dalle prime battute che facevano sembrare la storia un semplice caso di omicidio, la trama si dipana in una serie di deliri mistici alla Lynch, in cui l'assassino passa dall'essere un semplice essere umano ad un'entità simildemoniaca, rappresentazione della malvagità stessa umana che si impossessa degli uomini per fargli compiere atti efferati in cerca di uno strano nutrimento prodotto dal dolore umano, ambrosia delle creature che, come lui, vivevano nella misteriosa loggia nera, una sorta di dimensione parallela a quella delle Twin Peaks. Il famoso Bob, ve lo ricordate? Mamma mia. Maestro, lei vuole dire qualcosa a proposito? Cioè, è una cosa bella dopo tanto trauma, in realtà, nella mia vita. Cioè, ho scoperto, grazie a te, grazie a voi, che abbiamo riaperto il file... chi era Bob nella realtà, che forse un pochino mi è passata la cosa, però non volevo... È vero, te la fa un po' ridimensionare, cioè, non so, cosa. Lo posso dire? Prego, va di lei. Allarme spoiler. Cioè Bob è uno di quelli che, come è successo anche a me, sul set cinematografico, se sbaglia, sa che stanno girando da quella parte della stanza, si mette in mezzo... Tipo la Boris. Stop! Ma che cazzo è quello? Esatto. Aspetta un attimo, fatevi vedere. Oh! Genio! Ok, cioè questo per dire pure che insomma Lynch veramente, cioè, ha fatto qualsiasi cosa raccattava per terra, ci cioè, ha fatto il cosone e noi ci siamo cascati comunque. Ha reso Biascica protagonista. Esatto. Ha smarmellato. Ma questo gli famo fa lo spirito. Che poi la gente in quel periodo si ingarellò tantissimo con la storia del Twin Peaks, al punto che forse lì nacque la prima questione sugli spoiler. La risposta alla domanda chi ha ucciso Laura Palmer era così importante da difendere che addirittura agli attori venivano date soltanto le proprie battute e non quelle degli altri, io non so come facessero a recitare. E la scena che rivelava chi fosse l'assassino venne girata più volte da Lynch con diverse opzioni pur di non far uscire la notizia prima della messa in onda. In Italia poi il caso fu ancora più particolare perché ci fu proprio una questione spoiler fortissima. Eh sì, è un altro fenomeno inspiegabile, nel senso pre-internet, come fu la cassetta del Magnotta, per chi se la ricorda, come ha fatto a diffondersi certo. Per tutta Italia. La notizia di chi era stato l'assassino di Laura Palmer si sparse prima della fine della serie, che era seguita tipo da tutti, ma proprio tutti, il mercoledì di Coppa. Per cui c'erano pure le striscioni allo stadio per coloro che non erano qualificati alla Coppa, che scrivevano voi Twin Peaks. Questo era per dire quanto era nazional popolare. E così la cultura di quei tifosi è aumentata. E alla fine lo spoiler riuscì e non lo sapremo mai. La colonna sonora tenebrosa e angosciante di Twin Peaks è opera del compositore italo-americano Angelo Badalamenti, storico collaboratore di Lynch, famoso anche per la colonna sonora del gioco del 2005 Fahrenheit. Se non lo conoscete, giocatelo adesso e poi ne riparliamo in un altro momento. Fahrenheit. La colonna sonora è essa stessa un piccolo mistero. Il music supervisor di Lynch, David Harley, scoprì infatti, studiando la trascrittura delle notazioni MIDI del tema di Laura Palmer, che l'immagine mostrava proprio il disegno di due montagne, come se inconsciamente Badalamenti avesse concepito quella musica per formarlo. Egli stesso ne rimase sorpreso e deliziato quando lo scoprì. Nel tempo molti grandi nomi, non numeri, della musica. Stavi quasi. E c'è il copyright lì. Mi è scappato un Hilbert. Che poi dei numeri a casa. Cioè. Infatti ti ha guardato, tipo, oddio, lo potrò dire. Lo posso fare. Mi è venuta l'ansia. Nel tempo molti grandi nomi della musica hanno partecipato al fenomeno di Twin Peaks, direttamente o indirettamente. David Bowie interpretò un personaggio nelle prime stagioni che non poté riprendere nella stagione più recente a causa della sua recente dipartita, ma lo fanno. Ma apparì comunque perché in un precedente accordo Bowie aveva dato il consenso a che le immagini riprese per un vecchio film della serie Fuoco cammina con me venissero usate. Così poté interpretare il suo personaggio nella serie del 2017 sia tramite immagini preregistrate sia per la trasformazione del personaggio in una gigantesca teiera. Sì, ho detto teiera. Oh, ragazzi, è lì. Perché era inglese? Non me dite. Ma veramente? Non me dite. Perché io mi sono fermata alla terza puntata dell'ultima stagione, non ce l'ho fatta, devo dire. Le prime due veramente col cuore, le prime due stagioni, ma questa mi sono un po' rifiutata. La terza era bellissima, non capivo un cazzo dall'inizio alla fine. Esatto. Capito, cioè c'ho de meglio da fare che pensare a Twin Peaks io nella giornata. Fatto sta che c'è degli alti e bassi, no, però poi alla fine merita, dai. Ti preparato, c'avevi 25 anni di preparazione, cioè, già lo sapevi. Ma pure in quei 25 anni c'avevo de meglio da fare che penso a Twin Peaks. Mo mi è piaciuto da morire. Vabbè, la teiera non vi è piaciuta, quindi però che ha mantenuto i tempi laschi tutt'oggi, cioè quello è il discorso. Non si è adeguato Lynch, così. Il lungone prolisso nonsense. Sì, è la sua specialità, lo sapete che fa ste cose Lynch. Particolarmente nella serie del 2017, questa infamata appena adesso, molti musicisti parteciparono alle riprese. Ogni episodio infatti si concludeva con la performance di un gruppo musicale nel Bang Bang Bar, storica roadhouse delle prime serie. Tra loro i Nine Inch Nails col bellissimo pezzo She's Gone Away ed Eddie Vedder con il meraviglioso Out of Sand. L'influenza della serie nella musica è stata indirettamente enorme poi negli anni, con una quantità imbarazzante di remix dal tema principale stracampionato da chiunque, tra cui Moby, Bastille, gli Anthrax, persino il nostro Luca Carboni, ragazzi. Ah sì? Sì, persino lui. I suoni di Twin Peaks in qualche modo condizionarono un'epoca e ne è testimone il fatto che sono sicura che se avete vissuto in quegli anni, il background musicale che sentite vi sta facendo un po' rimestare lo stomaco ancora, vero? In realtà questa non è solo una sensazione, ma un preciso fenomeno che è stato a lungo studiato, poiché è profondamente radicato nel funzionamento stesso del cervello umano. La musica è una sorta di chiave capace di evocare i ricordi. La memoria a lungo termine, infatti, può essere divisa in due tipi distinti. La memoria esplicita, che è quella l'azione deliberata di ricordare qualcosa e richiede la ripetizione per non svanire, cioè quando impariamo da un libro e dopo qualche tempo dobbiamo ripassare per ricordare. Mentre la memoria implicita è quella inconscia, automatica, che è molto più longeva e può durare anche per tutta la vita. L'implicita è talmente più dura a danneggiarsi che tende a non farlo persino in presenza di patologie degenerative come l'Alzheimer, che invece distruggono facilmente la memoria esplicita. Per questo la musica viene usata come uno dei pochi metodi in grado di penetrare la barriera delle menti dei malati di Alzheimer, che a volte riescono persino a ricordare se stimolati dalla musica corretta. È interessante anche il fatto che la memoria implicita si allena passivamente, al contrario dell'esplicita, e così ascoltare un pezzo molto spesso può avere un effetto reale sulla preferenza che ne si ha, solo a causa dell'esposizione ripetuta, che è poi il motivo per cui le major continuano a propinarci a ripetizione i pezzi che vogliono spingere il più possibile. Il reggaeton! Dai! C'entrava. Sicuramente. C'entrava. Tantissimo. In generale, più un pezzo viene ascoltato, più la gente comincerà a gradirlo. Sapevatelo, sul nord del nerd. Piccoli nerd, il nostro angolo è giunto quasi al termine, ma vi lascio, maestro, ti sto facendo tutta la descrizione, la bivio, lento lento, si cerca il pezzo. Dicevo, vi lascio con la poesia di Eddie Vedder, che suona al Bang Bang Bar, presentato con il suo nome di battesimo, Edward Louis Severson. Out of Sand, Eddie Vedder. Ladies and gentlemen, the Roadhouse is proud to welcome Edward Louis Severson. Can't climb to heaven on the cross. One liar's promise drained the blood from my heart. Came a message in the dark. Offered the hand of a disembodied man while I still had a chance, but now it's gone. And I am who I am, who I was. the bone. Blurred eyes look back at me, full of blame and sympathy. So, so close. Right road's not taken, future's forsaken. Drop like a fossil or stone. Now it's gone, gone. And I am who I am, who I was. That will never come again. Running out of Radio Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta alle 17.44 di questo sabato 11 febbraio, tutti impauriti che parliamo della paura, ma in realtà abbiamo anche dimenticato col brio dell'inizio di salutare gli assenti o quantomeno coloro che pur assenti hanno contribuito a questa puntata, quindi salutiamo anzitutto la maestra, la professoressa Viola. Ciao, ciao Violi. Alla quale avevamo promesso un collegamento, ovviamente per colpa di Betta che ormai regna lei con il console, non si può fare. Non si può fare. Prima abbiamo provato, ha preso fuoco tutto e quindi niente, il nostro diciamo caloroso sarà così a distanza senza il contraddittorio in pratica. Cioè Viola può scrivere sul canale Telegram che risegnaliamo a tutti coloro che si volessero lamentare di noi, ma soprattutto Viola, perché adesso noi praticamente facciamo come si dice man bassa della sua rubrica. Cioè gestiamo la sua rubrica, perché comunque ci sta un pubblico di piccolini che ci fanno conto, quindi ogni volta che la professoressa Viola si assenta non volendo fa piangere diversi bambini, e quindi noi invece siamo lieti, orgogliosi di dire ai bambini che la maestra professoressa Viola ha mandato un contributo. Evviva! E questo è molto importante. Allora siamo pronti a lanciare la rubrica di Music and Poetry. Giusto maestro? Giustissimo. Io prendo atto. Entrare a gamba tesa. E soprattutto mi posiziono sulla... Allora mandiamola. Sigla. Sigla. Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia. Vorrei. E non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Ho chiamato pazzo, ma nessuno ancora ha potuto stabilire se la pazzia sia o non sia la più elevata forma di intelligenza. Se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non derivi da una malattia del pensiero, da umori esaltati della mente a spese dell'intelletto generale. Vi parlerò oggi, amici, di Edgar Allan Poe, nato a Boston il 19 gennaio del 1809, morto a Baltimora il 7 ottobre del 1849. Per rimanere in tema puntata, non vi parlerò della vita, ma dell'ultimo periodo della sua vita, molto strano, e soprattutto della sua morte, che ancora tutt'oggi è avvolta dal mistero. Sopraffatto dal dolore per la grave perdita di sua moglie, poi iniziò a corteggiare, dopo un po' a rimettersi in gioco, a corteggiare varie donne, però senza, diciamo, riuscire ad avere proprio un coinvolgimento totale. E fino a che ritrovò un amore di gioventù, Sara Elmira Royster Shelton, e decise intorno all'aprile del 1849, per questo amore decise di uscire dalla dipendenza, dall'alcol, dalle droghe, dall'oppio, e quindi la sua intenzione era di disintossicarsi completamente in vista del matrimonio con questa donna. Ma che successe? Che Poe morì improvvisamente 6 mesi dopo, in seguito ad una malattia di origine tuttora incerta. E il 3 ottobre del 1849 lo scrittore fu ritrovato per le vie di Baltimora in grande difficoltà e bisognoso comunque di immediata assistenza. Il bello è che nessuno lo riconobbe, perché era, a parte in queste strade appariva delirante, ma poi era vestito con abiti non suoi, molto più grandi, e tutto sporco. Lo riconobbe solo una persona di nome Joseph Walker, che subito lo portò in ospedale. E però purtroppo Poe non rimase mai, diciamo, lucido e da spiegare come si fosse trovato in queste gravi condizioni. E si dice che Poe abbia solo ripetutamente pronunciato questo nome, Reynolds, la notte prima di morire, ma anche lì non è mai stato chiaro a chi si riferisse. E poi, una volta morto, diciamo, furono persi referti medici, compreso anche il certificato di morte. Quindi da lì i giornali dell'epoca, diciamo, iniziarono a parlare di questa possibile, cioè della causa della sua morte, quindi prima riconducibile all'alcol. Poi però, appunto, erano 6 mesi che lui non beveva più, non si drogava più, e quindi si parlò appunto di sindrome d'astinenza, quindi da alcol e da droghe, ma anche questo non era riconducibile al modo in cui questa malattia fece il suo decorso, perché era una malattia che gli procurava deliri, e poi lui andò in coma, poi si risvegliò, quindi di nuovo in preda dei deliri, per poi morire. E quindi, diciamo, l'ipotesi più accreditata è che lui prese la rabbia, questa malattia data dai suoi animali domestici. Ma queste sono appunto solo ipotesi, perché, diciamo, questa morte, la morte di questo poeta, è ancora avvolta dal mistero. È incredibile. Ringraziamo la maestra Viola per questo contributo, che comunque non avevamo detto ai bambini che era una cosa un po' forte oggi, perché comunque la maestra Viola è vero che pensa ai bambini, ma pensa anche al tema che si lancia ogni volta, quindi si documenta di conseguenza. E Edgar Allan Poe magari i bambini lo leggono più in avanzata età. No, ci stava bene anche Twin Peaks sotto, però ha pure rotto un po', no, cioè, no, ok, grande Betta che mi segnala i servizi. Sì, no, quello che prima voleva essere, diciamo, il lancio di una musica generica, non generica, che ho voglia di niente, diventa questo. La qualità. Ok, ok, ok, ok, ok, ok. po' più morigeratamente mettiamo questo Blue Moon in versione sottofondo, per dire appunto che si trattava del lupo americano lupo mannaro americano a Londra, un bel scioglilingua che si trasformava, cioè era proprio il momento in cui lui si rendeva conto che non aveva mangiato male ma era forse qualcosa di più. Questo per regalarvi un po' la scena: lui sta sul divano, sta a sentire la musica in cuffia come noi adesso, e poi una certa sbrocca, e è il primo film in cui si vede la trasformazione, diciamo fatta bene, con certi effetti, diciamo, che prima non si vedevano, di qualità. John Landis, e io mi, così come al solito, mi rifaccio a me stesso e al mio, appunto, a parte Bob, che poi grazie al fatto che ho scoperto che era un macchinista maledetto, cioè adesso mi sta un po' quasi simpatico, però mi ha traumatizzato per tutta la vita. Oltre a lui c'era anche appunto il lupo, comunque la paura delle metropolitane, anche se a Roma non c'è sta, però vabbè, le poche volte in cui ho preso la metropolitana ci ho pensato, e niente, vabbè, soprattutto il momento in cui appunto vidi per la prima volta questa trasformazione bellissima, così come noi adesso ci trasformiamo in una trasmissione che non parla più di paura, perché non abbiamo più paura. Io ho paura di dire che comunque in questo momento, cioè, si sta svolgendo una manifestazione intorno a noi e che noi la ignoriamo perché siamo dei professionisti, ci eravamo detti una cosa, che quella è, nessuno sapeva che c'era questa manifestazione. Io ho già detto che me lo sto vedendo tutto Sanremo comunque. Cos'è? Hai fatto come Morandi ieri, ecco, che ha spoilerato le cose prima del tempo. Non so se l'hai visto, che bello. Sì. No. Ma l'ha visto mia sorella, mi ha chiamato e mi ha raccontato chiaramente. E comunque sta di fatto che noi appunto partecipiamo a un evento altrettanto ipocrita, che vabbè, io chiamo così, no? In realtà è un evento che sosteniamo, che già l'anno scorso si è svolto e che è, dillo tu Gabri, ti prego, sarai anche un po' partecipo di questa cosa, l'anti-festival, l'anti-Sanremo, che si svolgerà domani nel pomeriggio a partire dalle 18 qui in sala da te al Forte Prenestino. Radio Onda Rossa, in collaborazione anche con Radio Forte naturalmente, e in particolar modo a cura dei nostri amici di ITLAD, di Io Te L'Avevo Detto, e condurranno questa kermesse che appunto si pone all'antitesi rispetto al Festival di Sanremo che tutti conosciamo, ed è appunto l'antifestival. E tu sei giurata, lo vuoi dire che tu sei uno dei giurati? E io che normalmente vesto panni della giuria. Quella! Mannaggia, la modestia a volte ti fa difetto, veramente? Sì, la mia amica... Ti butti sempre giù. La mia amica Angie mi ha detto di dire che io e tu normalmente sei giurista, domani sei giurata. Ecco. C'è anche una sigletta che accompagna grazie questa cosa, la posso mettere? La metto, dai. Sì, sentiamo anche la sigletta. Vai! Ma che bordì! Io te l'avevo detto! Cosa? Ah, che pensate a inventare, guarda che io... Nani, io stasera c'ho già un programmino che... Te l'avevo detto no, su Onda Rossa Radio Forte, oggi presentiamo l'antifestival, varietà per bimbi di ogni età. Ah, ecco, sì, no, beh, ma voi state proprio fuori. Ma no, io, guarda, le devo dire, mo stacco e me ne vado. Io te l'avevo detto. Guarda, siete molto gentili, ma io non sono interessato. Ciao, ciao. Te l'avevo detto. Ma ci sta Sanremo, Amadeus, Achille, Lauro. Te l'avevo detto no. Sì. Nessuna che porterà. Che? Questa sera va in onda il festival. Sì. Chi non sopporta più nell'altro festival. Te l'avevo detto no. Su Onda Rossa Radio Forte. Sanremo poi con l'antifestival. Bene, quindi salutiamo i nostri amici di ITLAD ancora una volta, che in questo momento tra l'altro sono in diretta anche loro sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e stanno certamente lanciando, ecco, questo appuntamento immancabile, che torna anche quest'anno, è tornato a grande richiesta. L'anno scorso era stato veramente fantastico. Ma non andate a sentirlo adesso, lo sentite, cioè, no? Adesso sentite, diciamo, c'è la puntata di anche ITLAD, loro stanno domani... dicendo ascoltate Centocelle Avenger, che certo dice che poi c'è ITLAD. Sì, sennò sì, poi sì, ci siamo scritti, io sono sicura che lo stanno facendo anche loro, poi andremo a riascoltare il podcast, vediamo se l'hanno fatto. Manu, resta un qui. Saluto. Quindi domani, ragazzi, tutti accorrete, numerosi numerosi in sala da tè a partire dalle 18. Chiaramente per partecipare al, all'antifestival si può sia contribuire con un brano, diciamo, cantato in diretta live domani direttamente durante, a partire dalle 18 appunto, in sala da tè qui al Forte Prenestino, oppure inviare il brano ai nostri amici. Beh, diciamo che sui loro canali trovate tutte le informazioni, adesso non le ho proprio sotto mano, ma ci sarà quindi questo modo di partecipare. E al termine ci saranno anche ricchi premi e cotillon. Non svelo troppo, maestro, non so se volevi aggiungere qualcosa. Niente, che il ghiaccio purtroppo è stato rotto, quindi cioè ormai, cioè, quindi dobbiamo parlare di Sanremo. No. Ammetto che quando abbiamo parlato del tema, il brainstorming e tutto quanto, ho detto manteniamo il punto, pur sapendo che sarebbe successo quello che sta per succedere, ma se l'avessi detto prima voi vi sareste concentrati solo su quello, quindi comunque abbiamo fatto bene a tenerci per noi il fatto che effettivamente c'è stato un rise and fall comunque, cioè, un po' d'obbligo su sta cosa. Io non so, è vero. Cioè, non va arrabbiate, se no, cioè, lo so che poi ci saremmo lasciati prendere, quindi vabbè, poi ci sarà un momento in cui potreste fare proprio rabarba. Cominciate a fare a tutti di Sanremo, dite tutto quello che vi pare, le cose, se sfogamo 5 minuti e si finisce, ok, ci dai il via. Ma prima comunque andiamo a sottolineare i fenomeni musicali quantomeno rispondenti a una rubrica che ha una sigla, che è Rise and Fall. Sigla. La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno potresti dire addio. Lasciarsi, io ci sto. Poi. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra bella valle. Lo manda. Ricominciamo oggi, siamo amici, siamo sotto sotto la cenere, ci saranno chi ti aspetta ancora, ma che si chiude la la inseparabili. Pensa poi come ha presa la maestra Viola, che, cioè, che appunto non ci poteva essere. Che stavano lettando la paura, se me lo dicevano Sanremo facevo un pezzotto da. Invece mentiroso. Sarà lì che collato poco. Non dico la rubrica del cuore dove poteva andare a finire con Sanremo. Purtroppo niente, per questa volta maestra Viola l'abbiamo scampata. E, tuttavia, appunto, parliamo degli scioglimenti e delle reunion musicali. Perché se non altro l'abbiamo citati già, quindi ci tocca proprio come giornalisti, come abbiamo già detto, noi torniamo sul posto, sul luogo del delitto e vediamo cosa è successo un anno dopo, due anni dopo. Insomma, abbiamo annunciato con dolore lo scioglimento delle due sorelle Paola e Chiara, più famose più famose di Gesù, e niente, no scusa Virgi, non volevo, mi è scappata perché lei ha detto che allora capito. L'ho solo guardato male, ha chiesto immediatamente scusa. Comunque insomma è successa questa cosa all'interno di una serata che è già stata, diciamo, la festa dell'amicizia, se posso dire, la festa delle reunion. Per quello io poi, cioè, oltre a loro, no, che ci stavano pure loro, mi dicevano festival, loro mi dicevano festival, loro mi dicevano di stare, per dire solo due dei grandi reunion che ci sono stati in questo contesto, Giorgia che canta con Elisa, cioè insomma delle dinamiche, no, ieri la serata delle dinamiche che mi ero dimenticato, perché comunque sempre io non lo guardo, lo guardano e me lo raccontano Sanremo. Tuttavia appunto vedere anche il big che mangia il piccolo in certi, cioè Eros non ha fatto cantare il suo compagno di viaggio, cioè proprio vabbè, insomma delle cose bellissime, andate a rivedere su c'è stato anche Manuel Agnelli con Gianmaria che hanno cantato un pezzo degli After Hours che mi sono rifiutata di vedere perché, cioè, non è possibile. Scusate, ne parliamo dopo. Però. No, sì, ho detto che avrei fatto sfogare. Comunque, ci siamo caduti. Diciamo che ci sono state queste reunion che interessavano la rubrica, quindi avevo questa scusa. Ma adesso basta. Noi siamo sempre fedeli a noi stessi. Ma siamo sull'attualità, perché la nostra scuola di musica risponde. Come l'antifestival risponde, anche noi rispondiamo a Sanremo con la nostra scuola, il nostro binomio, il nostro. Al mio paese ci sono due binomi. Due binomi. Al mio paese ci sono due gruppi, si chiamano le Holograms e i Beehive, due binomi in Beehive. E questo binomio c'ha, un, c'ha una sigla, non so perché ho preso a parlare così, però volevo cercare la sigla, prendere tempo. Infatti, no, io posso parlare dei binomi se vuoi per farti no. Esatto, no. Ti prego, cerca, lo sapevo. Fallo. No, nel frattempo io posso dire, però scusami, prima che vi passerà la musica, che in effetti gli articolo 31 hanno fatto proprio il pezzo sul loro ritorno insieme. Cioè, non è che hanno solo annunciato e basta, che sono, si è sono vero, riuniti vero, negli articolo 31. A quanto ne so, anche... c'era pure Fedez che aveva scazzato pure lui con J-Ax. Sì. Era grande pure lui, detti cioè, amici. È stata proprio una come dire, una sorta di terapia che hanno fatto così, una vabbè, seduta come, psicologica. Cioè, dopo Little Tony Bobby Solo, quella cosa della stretta di mano, degli eterni rivali che si è, cioè, c'eravamo ecco, anche un po' out, abituati. Comunque tutto questo è servito a trovare la sigla, siete contenti? Oh, ecco. Oh, ok, questa è la sigla che consta della scuola di musica d'insieme. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Che promette di essere l'avvenimento più seguito della storia del... Ed è proprio qui che cominciate a pagare. Non siete in competizione l'uno contro l'altra. Ripeto, non siete in competizione l'uno contro l'altra. Il mio nome è Jay. Quanto canto qui per voi. Vivi per pensare. Sono una cantante. Lo so. Il mio nome è Jenny. Pensare. Sì. Tu penserai a me. Competizione violenta, è per questo che sei qui, eh? Oh. Certo. Viva. Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. Povera di contenuti, ci hanno detto la nostra sigla di Jam e Beehive. Diciamo che poi prendiamo le critiche sempre con... No? abbiamo ricordato che... Io ci sto ancora pensando, prego. No, per diciamo, chi è nuovo all'ascolto di 100 Gioielli Avengers, che Jam e le Holograms e Beehive sono rispettivamente i due nomi delle due classi musica d'insieme, quindi della scuola di musica. Grazie del forte, ecco. Grazie, questo era un asterisco di didascalia a margine, giusto? Con il numeretto 1. Una deformazione professionale. No, scusate. È giusto, perché diamo per scontato che si sappia che noi appunto diamo questi nomi un po' demenziali, un po' così. Nostalgici. Trash nostalgici sul ai perché, gruppi ecco. Di studenti che poi sono anche composti da gente insomma, di altre generazioni che diciamo fatica un po' a ritrovarsi nei. Sotto gli emblemi delle Holograms e dei Beehive. Però vabbè, noi confidiamo sempre nella loro, no? Però, ma soprattutto li siamo andati a conoscere, no? Esatto, c'è un dilemma interessante qui. Perché chi sono questi allievi del laboratorio di MD di musica d'insieme? E finalmente chi sono? Noi non lo sappiamo finché non passano per questa redazione a dire qualche cosa. Siamo andati a cercarli. A stalkerare. Ma veramente? Ma quindi abbiamo un inviato, un collegato? C'è un inviato a caso che è andato in una delle, diciamo, del post, dei post laboratori, in una serata normale, tranquilla, nello scorrimento normale di una serata nell'antisala, in cui i ragazzi dei due gruppi si ritrovano finalmente. Quindi siamo andati a vedere un po' che cosa è successo e cosa succede soprattutto in quelle ascoltiamo ore. Questa intervista a contributo. Grazie Virgi, veramente. Prego. Spessore, okay. Nome: Emanuela. Nickname: Manu. Strumento: voce. Qual è la prima cosa che guardi nelle persone? I denti. Che scusa usi per dare un 2 di picche? Scusa, devo andare un attimo al bagno. La follia più grande che hai fatto per amore? Troppe, non me ne viene in mente una. Nome: Viola. Nickname: Vento Viola. Sì. Strumento: voce, chitarra. Credi nella castità? Certo. Definisciti in 3 parole: allegra, gioviale, educata. Se fossi un animale, quale saresti? Se fossi un animale, sarei un elefante. Nome: Francesco. Nickname: Drugo. Tru- strumento? Ma scegliete voi, voce, chitarra, tastiera, batteria, ma suonati tutti male. Qual è la tua missione nella vita? Sparare più cazzate possibili. È vero che l'amore non è bello se non è litigarello? È che il litigarello non è bello se non è amore. Riassumendo? Nome? Matteo. Nickname? Stick me. Strumento? Il piano, il pianoforte. Il tuo tallone d'Achille? La cioccolata. Sei un duro o un cucciolone? Oh, un cucciolone. Un aggettivo per i tuoi pettorali? Diciamo in forma, sono in forma. Un applauso a... Io non so dove vai a pescare sta gente che fa queste interviste. Cioè, la scuola di musica ci mette la faccia. Quindi sembra di aver riconosciuto qualcuno. Questo è quello che succede quando noi non ci siamo, perché noi non c'eravamo assolutamente. E chi era l'inviato? L'inviato era qualcuno che vuole rimanere anonimo, credo. Era il drone? Non lo so, ci sono indiscrezioni, però non si è capito effettivamente... È tornato il DR100? D'altronde c'era molta confusione nel club. Secondo quindi... me era una voce sintetica di quelle tipo, non vorrei offendere, tipo sì. Alexa, esatto. Ma... però non... un po' meno risata. Di così. Era un po' più impostata. Che ride. No, eri sembrava tu. Metallica. Ecco. Ma comunque chiunque fosse, secondo me, insomma, molto bravo, anche perché è andato a prendere i nostri allievi proprio nel momento del cazzeggio post prove, quando c'è quel momento di bivacco, si beve, cioè non si capiva per nulla che era un momento di relax. Quando arrivano casino. Quando arrivano dei nuovi allievi che vogliono chiedere informazioni e noi non ci fermiamo e continuiamo a fare questa cosa qui, sì. Esattamente sì. In quel momento. Esatto. Comunque nelle prossime puntate di Jam e Mirko, la fiction della scuola di musica, sentiremo gli altri, insomma, cioè, non certo, non sono la faccia, solo quattro. Le più, diciamo, alte sfere della scuola di musica. Adesso vogliamo sentirli un po' tutti. Sì, ma troppe alte sfere ci sono. Abbiamo ovviamente omaggiato e dovuto omaggiare e voluto omaggiare Manu, che ci segue. Sì, ci ha scritto sul canale Telegram anche questa volta in ascolto. Grande, non sta a dormire. La nostra ascoltatrice numero uno. Anche Viola che è lontana ci scrive. Ha detto numero uno. Ha sperato che non si fosse sentito, ma credo che sia anche registrato. Numero uno. In compenso io ti ho perso numeri, la sigla. Li salutiamo tutti, quindi questi allievi degli spazi musicali autogestiti. Grazie ragazzi. Continuate a provare. Ma anche non perché non abbiamo detto quando si esibiscono questi ragazzi. Esatto. Già, perché anche noi abbiamo la nostra kermesse. L'adrenalina cresce qui, ragazzi, perché a breve li vedremo esibirsi sul palco del Forte in Piazza d'Armi sinistra. E, giusto, fonico? No, mi sa che è sbagliato. Infatti ho detto una castroneria perché è inverno, quindi allora, ci 2023, ricordiamoci. All'interno, scusa. Saggio d'inverno è una nuova istituzione. Sì. In effetti, ecco, mo mi aiuti pure a... Vabbè, prego. A lanciarlo? Sì, no, volevo anche spendere un attimo di... Così, del nostro tempo, che tanto ormai è andato, per dire che... È cambiato un po' il meccanismo, l'istituzione del saggio di metà anno è un'istituzione giovane, come si dice nei gerghi politichesi, e quindi aveva, diciamo, bisogno di essere ripristinata dopo, insomma, tutto il periodo che conosciamo, e quindi si è ripresentata con un nuovo meccanismo, diciamo, di assegnazione, ha fatto controverso. Sì, diciamo che l'annuncio dato agli allievi del nuovo meccanismo con il quale la scuola di musica pensava di, diciamo, andare avanti, la reazione è stata un po' la rivolta dei solisti, ragazzi che non si esprimono, ragazzi che non trovano spazio, non possono fare la doppia, gente che sta male, gente che ha protestato. Tuttavia, comunque, la nostra scuola è accontenta tutti. A Hogwarts, nessuno. E quindi, questo è solo il saggio di metà anno. Ma abbiamo cercato di attaccare un po' meno la pipa per poi fare il saggione di fine anno, che ci saranno anche gli amici, i cugini, i cugini, i privatisti. Cioè, spieghiamo rapidamente questo di metà anno, il saggio invernale, che quindi sarà il giorno 26 di febbraio. Fine, ho fatto dire, povera, è vero. Esatto, e vi invitiamo quindi a partecipare numerosi e numerose. Si svolgerà in versione ridotta, ecco, per questo c'è stata la rivolta dei solisti, che ahimè, sono stati quelli un po' forse che hanno, ecco, i sacrificati rispetto ad altri, se così possiamo dire. Ma io non sposo le parti di nessuno, no. Ci tengo a dirlo. Vabbè, diciamo ma che sarà comunque completo e splendido. Poi ancora più completo quello di luglio. Poi a giugno tu, a luglio, luglio, giugno, quando sarà tu che stai ascoltando, tu verrai a suonare probabilmente. Wow. No. Esatto. Che lo sappiamo. Tu ascoltatore, tu che ascoltatore, sei a probabilmente sarai sul palco. We want you. Attento che interroghiamo. Perché sei Manu. Iscriviti alla scuola di musica del Forte, perché accogliamo tutti, facciamo suonare tutti, ma a giugno, a luglio, non a febbraio, ecco. Quindi a questo punto io avevo preso tutto tempo per cercare la sigla che non trovavo, perché in questo momento sta per succedere qualcosa di, no? Ancora pauroso, di nuovo molto. Pauroso, no? Torniamo alla paura. Torniamo alla paura. No, a parte che appunto si aspetta a Franci di portarci in carreggiata con l'argomento di oggi. È finito, vi siete sfogati, volete dire qualcos'altro su Sanremo mentre cerco la sigla? La dovevi dire tu? No. C'è un piccolo argomento, ricordi? Ah, ok, no, vabbè. O no? Sì, cioè, mi ero dimenticato di dire che in effetti anche questo è un trauma. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Niente, quando bisogna calare le braghe lo dico, mi sono dimenticato qual era il trauma. No, questo è il nostro Blanco, no, che spacca le cose. Il povero fonico di Sanremo. No, perché poi i traumi si rimuovono. Quello, scusa, è proprio, non volevo il meccanismo di rimozione, che non è nasce dalla memoria emotiva, a caso, ma è proprio per rimuovere i traumi. Vabbè, e quindi questo niente. È un trauma altrui. È vero, si è parlato tanto di Blanco e quindi io dovevo dire mia, perché tutto sommato io ho vissuto a Capodanno, grazie a Blanchito, quello scenario che tutti hanno visto a Sanremo. Ho fatto: oddio, ha distrutto i fiori di Sanremo, ma la barbarie, cioè lui lo fa di fisso. Il suo show consta di una scaletta di 15-16 pezzi, durante i quali lui arriva con una sedia, si siede tipo Backstreet Boys, fa delle mosse un po' sexy, fa una certa, se incazza la spacca completamente, proprio la spacca. E c'è un addetto tipo me, non ero io quest'anno per fortuna, comunque c'è un addetto lì che rivira i pezzi, mette una sedia nuova, invia i pezzi, mette. Stessa cosa con le aste microfoniche, aste dritte che lui piega tutte quante, quindi a fine show ci saranno tipo una decina buttate di lato. Pensa, questo moltiplicato per una tournée di non so quante ne fa all'anno di date Blanco, ma è sulla cresta dell'onda. E quindi mo che ci ha rotto rosa a Sanremo, io lì per lì non ho reagito, cioè ho pensato che stava, e tra l'altro l'ha pure detto comunque era previsto, cioè io dovevo rompere tutto, non sentivo. L'unica cosa appunto è spendere una parola per questi fonici del palco, che ormai sono diventati The Caprus Expiatorium of All, perché la gente ha cominciato pure a capire qualcosa, perché una volta se dicevi non sento da linear, la gente non capiva, cioè ormai tutti sanno che c'è, cioè, sta un addetto all'ascolto, e anche Maria fa fermare amici, no adesso la riprovi perché non sentivi bene, va bene, a Sanremo ha cominciato a andare di moda pure questa cosa, che quindi voglio dire, dal mio punto di vista, ma avevo sempre con solidarietà, perché di solito anche solo un artista che ti dice una cosa dal palco, comunque non sento, già te lo vivi male come cioè professionalmente, dico, stai lì alla mercé di tutti ti vedono, ah sei una pippa, e in più questo diciamo a livello di 73% del share, quindi tutta Italia sa che tu non sai fare il fonico di palco, ecco, diciamola, e forse ne è manco vero, perché poi in realtà è una scusa, raga. Però vabbè tu non conosci il fonico di palco di Sanremo, vero? O lo conosci? No, sennò mandiamo in realtà un pensiero, no. Anche perché Sanremo lo fa esclusivamente la RAI, quindi ne ho parlato già dei tecnici della RAI, okay. Cioè non vorrei allungare troppo traumi fonici in questa sede, però appunto è un altro mondo quello loro, quindi magari lui ne frega proprio niente sta roba, anzi sa io, bene, se ero io mi vivevo male, vabbè, comunque, che poi magari Boraccio, cioè loro volano fare la scenetta magari volano solo fare la scenetta, sto Boraccio invece è stato tirato in mezzo, infamato davanti a tutta, cioè, Italia, infatti. Ah, poi cioè, è cominciato proprio a essere una moda. Bastava mettere gli cactus al posto delle rose, ragazzi. Grignani, tananai, tutti che facevano cenni così col dito verso l'orecchio. Ah, su, come se fossi. E dai, suona. Vabbè, io ho visto Grignani, non credo il problema fosse il. No, appunto, poi gente tipo brava, Grignani, brava. Che gli devi dire? Vabbè. Qualcosa comunque l'ho vista, lo ammetto. Io ammetto. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante rubriche. Esatto, qui oggi. Quella di cui cercavo la sigla mezz'ora fa, perfetto. Prima che poi mi ricordassi, scusa, chi ero. No, prego. A chi tocca? No, tu tocca. Perdi tempo. Oggi sono nascosto come, sì, come nelle migliori tradizioni film horror dentro la casa di Virginia, quindi abbiamo un ospite all'epoca, all'epoca. E l'ospite è ovviamente alla mia sinistra, ma anche alla mia più sinistra, ed è Francesco. Alla doppia sinistra. Alla doppia sinistra. Esatto, è la postazione che sarebbe di Viola, lo ricordiamo, ma anche oggi. Spero che ne sia valsa la pena. Metti che non ho manco trovato il file giusto, cioè sarebbe veramente, perché è una sigla nuova, quindi cioè comunque emozione. No, no, non no, è per... devi mettere no, la sigla è quell'altra. Ok. Non ce la sì, fa, non ce la bene, dobbiamo, no, dobbiamo ora mi sono ricordato tutto, ragazzi, scusate, amici traumi ascoltatori, in diretta. Vogliamo cambiare conduttore, ragazzi. Se è possibile, sì. No. Cioè io quindi cioè vado, cioè, prego, sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che no. Lo vedi? Attenzione, attenzione. Vedete se siate attenti questa qui. Cioè non è questa, quindi neanche. Ma io mi all'epoca sono persa, scusate. Quella sigla di all'epoca. Sigla di all'epoca. Vai con all'epoca. One small step for man. È una nuova diavoleria moderna. One giant leap for mankind. All'epoca Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. E salutiamo il nostro nuovo Paolo Limiti, a cui cedo immediatamente la parola. Che bello, che emozione. Niente formule, niente numeri. Ma ci sono i limiti. Mo lo dici. Bene, allora rubo questo diciamo la prima parte della rubrica per parlarvi dei visto che il tema è l'horror, dei nostri traumi, quelli dell'adolescenza e dei film che si vedevano quando noi eravamo piccolini. Ok. Allora, quindi specifico che sono stati selezionati accuratamente solo i traumi adesso relativi, quindi solo i traumi horror, dato che l'altro corposo filone dei traumi è quelli che diciamo riguardano le prese a male, come ad esempio, maestro, contributo 1. Oggi è inaffidabile. Scusate, ci stava bene dopo Sanremo sta cosa. Comunque faremo, sì, anche una puntata sulla tristezza. Tempo di ripesca Artax sotto i fanghi termali dei Tivoli. No, questi già sono 6 mesi di terapia. Okay. Ma mi sa che ne avevamo già parlato, poi l'ho visto, poi ne ho sofferto. Perché non esatto, l'avevo visto prima, ho sofferto, ho pianto. Il vabbè, cane, sì, ma lui, cose. Ma giustissimo, sì. Meno male. Perfetto, sotto fondo. E vabbè, direi sottofondo più azzeccato penso non ci potesse essere. E niente, quindi passiamo senza indugio all'elencone dei traumi horror che insomma non sono assolutamente da meno rispetto a quelli tristi. Ovviamente accendo la campanellina spoiler, ricordandovi però insomma che si tratta di roba abbastanza vecchiotta, eccetera eccetera. Beh, si parla della nostra adolescenza, sì, no? Insomma, okay, tutti i film abbastanza vecchiotti, insomma. È andato. Ok, il primo di cui parlo in realtà è una famiglia di traumi che appartengono alla stessa grande madre, cioè la madre Disney. Quindi qui i traumi sono veramente molteplici, tanto per citarne alcuni abbiamo la trasformazione della strega di Biancaneve, Una notte su Monte Calvo in fantasia, la balena che sbrocca male in Pinocchio, Medusa Super Saiyan nella Sirenetta, l'esercito dei morti in Taro nella pentola magica e chi più ne ha più ne metta. Qui veramente non mi ci soffermo troppo a parlarne perché sono talmente tanti e soprattutto direi che sono abbastanza noti, ma sono sicuro che ognuno di noi abbia il suo preferito. Ecco. Sì. Quindi il mio personalmente preferito era quello del nocchiere del paese dei Balocchi che mostra un ghigno malefico al gatto e alla volpe, svelando di fatto che i bambini dal paese dei Balocchi non tornano affatto. Bene. Altro che principesse. Esatto, siamo curiosi di sapere quali siano i vostri. Dopodiché, sempre per la categoria traumi a ettolitri, abbiamo ben 4 Cavalieri dell'Apocalisse, cioè si tratta di 2 film e di 2 lungometraggi animati. I film sono Nel fantastico mondo di Oz, e qui ringrazio Betta che me l'ha fatto scoprire tempo fa, e ovviamente It. Allora, il primo è un sequel, esatto. Il primo è il sequel cinematografico del Mago di Oz del 1931, ma al contrario del suo predecessore mette da parte i toni soavi per catapultare lo spettatore, che ricordo era un film per bambini, questo lo ricordo, in un vero e proprio incubo. Infatti la piccola Dorothy, dopo aver raccontato di spaventapasseri parlanti e di boscaioli di latta, viene rinchiusa, pensa un po', in un ospedale psichiatrico e sottoposta a elettroshock. Quando poi riesce a far ritorno nel paese di Oz, questo è invaso da creature agghiaggianti come i rotanti, uomini dagli arti oblunghi e con delle rotelle al posto di mani e piedi, o la strega Mombi, perfida fattucchiera che colleziona teste di ragazze e le indossa a proprio piacimento. Quindi questo era il fantastico mondo di Oz. Dopodiché Sweet, diciamo, vale un po' lo stesso discorso della Disney, è film, vabbè, arcinoto ed è un workshop di traumi, principalmente incentrati sulla figura inquietante del clown. Diciamo, anche se rivisto oggi potrebbe quasi sembrare divertente, ma siamo sicuri, insomma, che il buon vecchio Tim Curry, travestito da pagliaccio, assassino con i denti aguzzi, abbia popolato gli incubi infantili di tantissimi di noi. Ma pure mo, sì, guarda. Ma anche adesso, sì. I due lungometraggi animati sono La collina dei conigli e Black Dogs. Il primo narra la storia di un gruppo di dolci coniglietti che fuggono dalla propria colonia di origine, dopo varie peripezie e disavventure finiscono in una comunità senza femmine, dunque destinata all'estinzione. Per risolvere il problema decidono di rapire o convincere quelle delle comunità vicine e di una fattoria sorvegliata da un cane feroce. La cosa è la storia di Roma. L'atto delle Sabine, sì. più o meno sì. Più o meno sì. Plagio. La cosa ovviamente non va genio a una colonia di conigli in odore di fascismo. Seguono morti atroci a pioggia. Top scena traumatica, i conigli uccisi e gassati, vista la quale ogni film sull'Olocausto è tutta discesa. Nel secondo invece abbiamo nell'ordine cani torturati nei laboratori, cani che mangiano i resti di un morto per sfamarsi, cani che per sbaglio saltano su un fucile e fanno esplodere la faccia delle persone, cani inseguiti dall'esercito, FBI, Interpol, Carabinieri e Zio Cleto, cani che nel finale nuotano verso un'isola e non sappiamo se moriranno affogati o meno. Ah, a proposito, l'ha scritto lo stesso autore della Collina dei Conigli. L'avreste mai detto? Beh, no, dai. Bene, andiamo avanti e diciamo, faccio notare che molti dei traumi horror che abbiamo visto sono legati a una particolare tecnica di animazione che viene chiamata rotoscopio. Che cos'è il rotoscopio? Il rotoscopio è quando viene girata un'immagine live action, quindi con degli attori veri, dopodiché in post-produzione viene girato il cartone, quindi viene disegnato sopra la scena live action. E secondo me la scena principe traumatica di questa, diciamo, di questa tecnica è contenuta nel Signore degli Anelli di Ralph Bakshi, ed è precisamente la scena in cui i Cavalieri Neri fanno irruzione nella stanza della locanda dove stanno pernottando Frodo e i suoi compagni. E dopo aver preso ammazzate infatti dei letti vuoti ed essersene accorti solo in seguito, visto che Aragorn saggiamente li aveva spostati di stanza, i Cavalieri Neri, che già pregustavano il battuto di Hobbit, ci rimangono un po' male e quindi si riuniscono al centro della stanza, si levano il cappuccio rivelando volti raccapriccianti ed emettendo grida stridule, il tutto continuo da un fondale di tinte cupe, insomma una cosa proprio per bambini. Come direbbe il buon Gigi, al Cavaliere Nero non gli devi cacare cazzo. Esatto, poi sono 4-5. E passiamo oltre, e qui andiamo alla santissima trinità dei film di Indiana Jones, ciascuno dei quali contiene un amorevole trauma che ci ha coccolati come solo una vergine di Norimberga avrebbe saputo fare. E così, se nel primo e nell'ultimo, rispettivamente I Predatori e l'Arca Perduta e L'Ultima Crociata, abbiamo crucchi che letteralmente si squagliano o decompongono di fronte alla collera di Dio, quello dell'ultima crociata, diciamo, il crucco fondamentalmente si squaglia perché pensava che l'ultima cena fosse stata ospitata da Salvae. Nel tempio maledetto, praticamente il sommo sacerdote Molaram vuole arricchire il già prelibato menù serale, visto qualche scena prima, con della genuina coratella, prelevando a mani nude il cuore tra le costole di generosi donatori. Questo sempre così per... Tu hai tradito Shiva! Esatto. E quindi, vabbè, insomma. Ci avviciniamo lentamente alla prima posizione, ma intanto chi sarà mai al secondo posto se non un collega di Iron Man? Sei contento, Iron Man? Già. Ebbene sì, stiamo parlando di Howard the Duck, personaggio Marvel sul quale nel 1986 fu realizzato un film, decisamente bruttino, questo purtroppo c'è da dirlo, ma con un cattivone finale veramente da trauma Defcon 1. Stiamo parlando niente poco di meno che dell'occulto super sovrano, un alieno prelevato per errore da un potente telescopio dal pianeta Nexus di Sominus, che in marziano significa presso a poco castel di sangro, è intrappolato nel corpo del malcapitato dottor Jenning, salvo poi uscirne dopo averlo trattato alla stregua di una latrina invasa dai turisti dell'Oktoberfest nella parte finale del film, rivelando il corpo di uno scorpione con una bocca enorme, ed eccolo qui il nostro traumone, che lo classifica come lo Steven Tyler degli scorpioni, più o meno. Ha quattro grosse zampe posteriori che gli permettono di stare in posizione eretta senza eccessivi problemi, anche se il fatto che tali zampe finiscano con un mega unghione appuntito implicano che ciò sia l'equivalente di reggersi su quattro tacchi a spillo. Le sue manone sono tipo ventose, squadrate. Meglio di due. Eh? Meglio di due comunque. Meglio sì, di infatti. Due, beh, tipo i motorini quelli con due ruote. Le sue manone sono tipo ventose squadrate con quattro ditoni e unghioni agli angoli, e in più spuntano ulteriori tentacoli e uncini in altre parti random del suo corpo. E ovviamente al primo posto, ragazzi miei, non poteva esserci che lui, contributo. Ti ricordi di me, Eddie? Quando ho ucciso tuo fratello, io avevo questa fucetta! Ricordi! Lui credo non abbia mai passato le selezioni di X-Factor per via di questa vocetta. Era un po' come Hitler, che se gli avessero fatto fare l'accademia, probabilmente non sarebbe successo. Bene, se l'occulto super sovrano era Defcon 1, qui siamo proprio alla fine del XX secolo e il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni nucleari, tanto per continuare con le allegorie da olocausto nucleare. Il giudice Morton, interpretato da quel fenomeno di Christopher Lee, è un simpatico mattacchione che voleva sterminare tutti i cartoni animati per fare... Christopher Lloyd. Martin! Doc! Ti ho mai messo il dubbio perché ho pensato per un attimo era Christopher Lloyd. E niente, era un simpatico mattacchione che voleva sterminare tutti i cartoni animati per fare la sua superstrada con meravigliosi cartelloni pubblicitari che si estenderanno a perdita d'occhio ed oltre, e chi siamo noi per impedirglielo? Peccato che e qui veniamo al nostro bel trauma diviso in tre momenti. Gli eventi lo portino prima a sdraiarsi sotto un rullo per fissare l'asfalto, trauma 1. Poi, dopo essersi compattato alla stregua di una sottiletta Kraft e ripompatosi le membra come un copertone della Pirelli, si rivela per quello che è, cioè il cartone che ha ucciso il fratello di Eddie Valiant, trauma 2, quello del contributo audio. In una scena che tra l'altro è stata anche alleggerita, poiché nella versione originale si prevedeva che mostrasse anche altri dettagli del suo vero aspetto, come delle esili lunghe mani di colore rosso, per poi infine crepare definitivamente, sciogliendosi nella samoglia da lui stesso inventata. Questo è il trauma 3. Okay. La samoglia! Ma attenzione, che c'è un'ulteriore scena traumatica del film che credo conosciate tutti. Ed è il pezzo in cui praticamente, qui siamo proprio a livello pioggia di meteoriti per quanto riguarda il livello, è quello, cioè il momento in cui il giudice Morton circa metà film scioglie il cartone di una scarpa nella sala moglia, così a buffo, solamente perché questa gli si stava amorevolmente strusciando sul pantalone. Poverina! Un'ultima curiosità, originariamente, pensate un po', nel film doveva svelarsi che il giudice Morton avesse sparato alla madre di Bambi, cioè fatta questa proposta alla Disney, che ovviamente bocciò la proposta, chissà, forse per farsi perdonare dei numerosi traumi da lei. Numerosi. Ripetilo ancora io. Numerosi. Scusate, l'ho coperto con la voce. Che io ho sentito dopo. Questa cosa è assolutamente vera. Purtroppo è così. Sarebbe stato bello se avessero inserito questa. Io la vivo così. Vi lascio e lascio, diciamo, la seconda parte alla proprietaria di questa collega. Non hai un contributo da... Esatto, adesso... A parte questa macarena... Ok, vi lascio appunto... Con il contributo di visto che si parla di horror, di due programmi storici che erano trasmessi da Italia 1, diciamo, durante la nostra infanzia, che erano uno Zio Tibia e l'altro Notte Horror. In realtà Zio Tibia è stato anche il precursore in realtà di Notte Horror, nel senso che Zio Tibia veniva trasmesso, mi sembra, il venerdì in seconda serata, se non ricordo male, poi addirittura passò in prima serata, dopodiché lasciò, diciamo, il posto a Notte Horror il martedì sera in seconda serata. Pensate un po', dopo cosa? Dopo il Festival Bar. Pensate un po'. Dai. C'era il Festival Bar e poi Notte Horror. Ne parleremo nella prossima puntata. E quindi vi lascio al mashupone tra le due sigle. E tutti i viventi hanno la stessa sorte. Dopo la vita incontrano la morte. Torniamo a proseguire questa rubrica con la legittima proprietaria in questo caso. Come potete ascoltare di sottofondo c'è una canzone molto rassicurante che però fa parte di un film molto poco rassicurante, e parlando di traumi, soprattutto di traumi infantili, perché per me è stato un trauma infantile e non l'ho nemmeno vissuto come un trauma, pensate che cervello funzionante che ho, parliamo di Shining. Ma parliamo di Shining da che punto di vista? Dal punto di vista della regia. E visto che oggi siamo in vena di Stephen King, e ne abbiamo parlato prima insomma un pochino con It, e siamo in vena di scherzi perché è carnevale, vi parlerò del il nostro argomento del giorno sarà quel simpatico burlone di Stanley Kubrick. Seguiranno una lista di burle del regista genio ai danni della qualunque durante la lavorazione appunto proprio di Shining. Iniziamo con il parlare dello scherzone che lui fece al pubblico, appunto, tramite questo film. Innanzitutto, le gemelle Grady, iconiche ragazzine apparizione del film, non sono gemelle nella storia, né nel film né nel libro. Anzi, quando viene citata la loro morte dal proprietario dell'albergo, viene specificato che fossero le due figlie del precedente custode, Grady, di 8 e 10 anni. Per le scene però vennero scelte due gemelle decisamente più inquietanti, quindi diciamo ci ha un po' portato fuori strada. E ha iniziato light a fare gli scherzoni Stanley Kubrick. Passiamo allo scherzone del sangue. Questa volta gli effetti dello stile Kubrick furono addossati sia sulla troupe sia sui cittadini del luogo delle riprese. Infatti, parlando proprio della scena del sangue che esce dall'ascensore, quindi litri, litri e ettolitri di sangue che scendevano da questo, che uscivano da questo ascensore e che devastavano un po' tutto quello che c'era in quel corridoio, senza gli effetti speciali moderni, questa scena qui aveva richiesto, anzi richiedeva, 9 giorni di messa in scena, girata 3 volte, e quelle 3 volte furono sparse in un anno. Wow! Tutto questo perché secondo Kubrick il sangue non aveva il colore giusto. Quindi lo scherzone alla troupe era vai a pulire tutto. E soprattutto quando la girarono effettivamente per l'ultima volta, buona la prima, facciamo che questa ci esce, Kubrick non andò lì a guardare ma lasciò tutto in mano ai suoi assistenti, così per rassicurare un po' tutti, per rendere tutte le situazioni sempre un po' più tranquille. A proposito invece dei cittadini del luogo delle riprese, 1000 litri di sangue finto vennero gettati nelle fognature, mandando nel panico completo la città dove giravano, che si ritrovò il bacino fognario pieno di liquido rosso a tratti. Poi, come vi ho detto, insomma, le scene, i blocchi di riprese furono 3 sparsi in un anno. E questo bacino fognario pieno di liquido rosso aveva mandato nel panico, insomma, tutta la città. Ma sai che bella sensazione, no? Girare per la città. Che meraviglia, che dal tombino oggi piove troppo e esce. Poi dice che hit. Esatto, esattamente. Ma infatti, sempre di Stephen King stiamo parlando, insomma. Allora, passiamo alle personalità di spicco colpite dalla goliardia del nostro. La prima fu Stephen King, appunto, autore del romanzo a cui si ispirò il film. King lo criticò aspramente per aver corrotto completamente il senso del suo romanzo, e lo fece spesso anche in pubblico, ma Kubrick aveva un asso nella manica. Quando King cercò di mettere in scena una nuova versione più accurata rispetto al libro di Shining, si ritrovò a dover passare per Stanley Kubrick, che ne deteneva i diritti audiovisivi e glieli concesse solo a patto di non parlarne mai più male. Un uomo adorabile, insomma, diciamo che questo lo possiamo chiamare ricatto, come lo possiamo chiamare? Grande stratega. Adorabile ricatto. Se vero, ma giusto. Un tenerone, insomma. Passiamo, dopo i personaggi di spicco, direttamente al cast del film. Intanto ci furono 2 attori, Anne Jackson e Tony Burton, citati nei titoli di coda, che vennero completamente tagliati dal film. E, le loro scene facevano parte di 25 minuti di scene che non vennero mai inserite, se non quando uscì la versione uncut, che però ancora non l'ho vista, quindi sono curiosa di vedere i due attori citati ma non mostrati. Andiamo a Jack Nicholson, ovviamente il protagonista di questo film, che anche lui non fu assolutamente risparmiato dalla simpatia del nostro regista, che gli fece recapitare per tutte le riprese solo panini al formaggio, i grilled cheese, insomma, quelli americani, che lui odiava, così da incitarlo alla follia che effettivamente espresse al meglio. Insomma, pensate alla scena in cui accetta la porta, probabilmente per lui era un prosciutto, una bella bistecca, non lo so, tornati, insomma. I panini al formaggio. Esattamente. E quindi ecco, quello è un po' il clima in cui Jack Nicholson viveva tutti i giorni. Ma siamo arrivati alla più colpita di tutti, e qui diciamo, anche se c'è un clima goliardico, abbasserò un po' i toni, perché purtroppo dobbiamo parlare di un vero e proprio trauma. L'attrice colpita da questo trauma è stata Shelley Duvall. Shelley Duvall arrivò alle riprese già provata dalla rottura col cantautore Paul Simon. Si lasciarono poco prima che lei prendesse l'aereo per andare a fare le riprese del film. E io riesco a percepire un velo di soddisfazione in Kubrick, che non vedeva l'ora di trovarsi davanti a una persona facilmente manipolabile. E appunto, una donna col cuore spezzato per lui doveva essere oro, insomma. E infatti, grazie a Kubrick, durante le riprese, lei fu colpita direttamente da alopecia. E fu messa talmente sotto stress da avere veri e propri attacchi di panico durante le riprese. La scena della mazza da baseball sulle scale ce l'avete presente tutti, mentre Jack Nicholson sale le scale e lei sale di schiene, sì. Esattamente. Voglio solo spappolarti la testa. Ma certo, amore mio. Ma davvero? Fu girata 127 volte, provocando in lei lacrime, panico completamente reali. Quelli che noi abbiamo visto erano lacrime e panico reali dell'attrice. Con soddisfazione di Kubrick, che probabilmente le avrà dato un semplice buffetto a fine delle riprese e via. Un panino al formaggio. No, lei troppo. Visto che infatti fu sua convinzione quella di evitarle qualsiasi tipo di complimento, tanto da aver ordinato alla troupe di evitare di simpatizzare in alcun modo con l'attrice. E sicuramente fu anche contento di essere finito nel Guinness dei primati per il numero di scene girate, ovvero queste 127. Mi devi 5 euro, ormai c'è il copyright. Ma io mi ero intenerita. Senti, ma lei alla fine non gliel'ha data una mazzata in testa a Kubrick così per soddisfazione? No, lei adesso ci arriviamo a lei come è finita. Nonostante tutte le sue fatiche reali, il suo breakdown emotivo e i danni fisici e morali, Shelley Duvall fu inspiegabilmente nominata ai Razzie Awards come peggiore attrice dell'anno. Pure. E io, vabbè, questa cosa non la voglio credere vera, insomma, cioè per me... Ma vabbè, poverina... Insomma. Oltretutto, pochi anni fa fece una rara apparizione nella trasmissione americana Dr. Phil, appunto, in cui il conduttore, dopo evidenti segni di cedimenti mentali dell'attrice, decise di spettacolarizzare la cosa e di condurla in una struttura psichiatrica in cui lei rifiutò le cure, il tutto rigorosamente ripreso dalle telecamere. Dai. Ma povera! Mamma mia, questi americani! Shelley fermò la sua carriera a poche altre apparizioni, tra le quali il musical con Robin Williams su Braccio di Ferro, in cui interpretava Olivia. Bellissima. Esatto. A noi infatti piace ricordarla così, quando recitò accanto al suo adorato amico Robin Williams, tanto adorato che oggi Shelley stessa si rifiuta categoricamente di credere alla sua morte. E purtroppo, lo dico con tanta amarezza, Shining rimane uno dei miei film preferiti in assoluto, e quindi insomma non posso far altro che omaggiare invece questa opera d'arte, ma non il modo in cui è stata creata, mettiamolo in questo modo. E, bene, quindi adesso vi lascerei appunto con una Shelley Duvall inedita che canta nel musical Braccio di Ferro con la canzone He Needs Me. And all at once I knew at once, I knew he needed me. Thank you. I wanna whine, I knew he needed me. It could be fantasy, oh. Or maybe it's because he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. I'm a dance, I'll take a chance, I will, because he needs me. No one ever asked before, before, because they never needed me. But he does, maybe it's because he's so alone. For once in life, I finally felt that someone needed me. And if it turns out real, then love can turn the wheel. Because he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. He needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me, he needs me. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Di nuovo in diretta su Radio Forte, 100 Celle Avengers, tutto da solo perché Betta se n'è andata. Dateci un fonico! Detto, vabbè, io ho fatto il nerd del nerd, basta, me ne vado. Sta riscalando la cima. Il nerd del nord, il nord del nerd, tutto a posto. Siamo nella valle, bello. Trema il soppalco perché... è tornato Betta. Il fonico! Esatto. È il momento della cultura, della storia dell'arte. Sì. Che in questa trasmissione viene curata da un contributo esterno costante, perché non ne salta una, sempre meglio sul pezzo, di noi. Meglio di noi sicuramente. Sì, salutiamo Angelo, ovviamente stiamo parlando di lui. E io cerco la sigla, tu di qualcosa. Allora, questo contributo, sì, sempre ci arriva da lontano, come dicevi, puntualissimo anche stavolta, a tema con la puntata, la tutto l'argomento di cui stiamo parlando oggi, perché ci porterà nel Battistero di Firenze, quindi ci parlerà di questi terrificanti, mosaici, e del giudizio universale. Bando alle ciance, sentiamo Artifici e iniziamo con la sigla. Grazie Angelo, grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Salve amici, oggi è una pillola particolare perché viene fatta in stato di emergenza. Io mi trovo in Sila, a Camigliatello, tra la neve, non ho quindi i miei punti di riferimento usuali, testi o altro, appunti, e quindi tutto viene fatto così in diretta. Ed è l'occasione buona per armonizzare la pillola al tema proposto dalla redazione per oggi, cioè la paura. Restiamo sempre nell'ambito dell'argomento arte e committenza, andando allo specifico a vedere alcune opere che sono proprio esempi lampanti di come la committenza influenzi l'opera degli artisti e l'influenza per soddisfare sempre i propri fini, i propri scopi e, come abbiamo già detto, in epoca medievale, rinascimentale, lo scopo dei committenti era quello di magnificare se stessi, non tanto di prestare tributi all'arte, ma l'arte veniva strumentalizzata e usata al loro vantaggio. Vi chiederò di fare eventualmente dopo una ricerca delle immagini, perché parleremo della Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto tra il 1303 e 1305, e in particolare del grande affresco che c'è sulla porta d'accesso, quella che era la porta d'accesso della cappella, e sulla quale parete è rappresentato un grande giudizio universale. Ora, tutti i giudizi universali dell'epoca medievale, rinascimentale, avevano la stessa impostazione, è qualcosa che abbiamo già detto, cioè i committenti davano delle indicazioni ben precise ai pittori, nel senso che ciò che dovevano rappresentare, intanto dicevano quello che volevano che venisse rappresentato, ma dicevano anche il come doveva essere rappresentato. E questo per creare una uniformità nel tempo e nello spazio, cioè chiunque entrasse in una chiesa di fronte a un giudizio universale doveva già sapere quali erano i canoni da rispettare. Quindi i giudizi in genere, compreso quello famosissimo di Michelangelo nella Cappella Sistina, prevedevano un Cristo centrale, un Cristo giudice centrale, a volte racchiuso in una mandorla, in un circolo, e poi accanto a lui c'erano apostoli, santi, angeli, sia a destra che a sinistra, su un primo registro superiore. In basso, a sinistra di chi guarda, e quindi alla destra del Cristo giudice, sempre venivano rappresentati coloro che venivano salvati, i buoni, le anime elette. Alla sinistra del giudice, quindi a destra di chi guarda, viene quasi sempre rappresentato l'inferno, cioè le anime dannate. Ora, se lo scopo della Chiesa in quanto committente era quello essenziale di divulgare le storie della Bibbia e del Vangelo, Vecchio e Nuovo Testamento, fra questi scopi, doveva rientrare anche la paura. Cioè i fedeli che entravano e guardavano dovevano avere paura dell'inferno. Quando avrete modo, anche in rete, cioè Cappella degli Scrovegni, Giotto, individuate il giudizio universale, in basso a destra vedrete un inferno rappresentato. Intanto c'è una figura centrale in basso che è il demonio. Che fa questo demonio? Ovviamente in forme decisamente paurose. Ingoia i peccatori vivi e li espelle ancora vivi, cioè li mangia e li caca, per dirla in maniera che non ci siano equivoci. E questo era un ciclo continuo. Quindi una delle tante pene rappresentate era questa: essere mangiati e defecati dal demonio. rispetto alla figura del demonio, in alto a destra ci sono degli imbiccati. Uno è imbiccato per la lingua ed erano i maldicenti, uno è imbiccato per i testicoli ed erano, inutile dire chi, coloro che facevano uso degli strumenti. Le donne erano imbiccate per i capelli. Ingrandendo il particolare si vedranno uomini che vengono sodomizzate, donne che vengono stuprate, e quindi c'è tutta questa serie di pene afferenti quasi tutte alla sfera sessuale, perché ovviamente essendo una sfera e una parte sensibile anche dell'organismo, quell'immagine doveva essere il più raccapricciante possibile. Quindi i vari pittori, quando dovevano rappresentare l'inferno nel Giudizio Universale, si sbizzarrivano con tutto il loro spirito sadico, masochista, insomma, tutto quello che vogliamo. E i Santi Padri ovviamente lì consentivano nudi e scene disdicevoli, che ovviamente non potevano essere rappresentate in altre occasioni. Tutto ciò suscitava il terrore nei poveri fedeli che si convincevano nel tempo e dovunque, perché erano sempre posti di fronte alla stessa immagine, che commettere peccati comportava quel tipo di pene, soprattutto commettere peccati nell'ambito dell'attività poi affettiva, sessuale, insomma, era terribile. La stessa cosa troviamo in Michelangelo, lì è meno truce Michelangelo, però, ed è più ironico, ma Michelangelo si poteva consentire più cose, ha rappresentato fra i diavoli, non mi ricordo il nome, perdonatemi, ma il cardinale che gli rompeva più degli altri le scatole per i nudi che lui andava raffigurando nella tela. Bene, Michelangelo lo ha raffigurato nelle vesti di Minosse e con un serpente che gli morde il sesso. Quindi la pena, che sempre nell'ambito della sfera sessuale, è la pena che Michelangelo ha previsto per quel cardinale bigottone. Devo chiudere, basti questo, ma sappiate che la paura è stata ampiamente fomentata e alimentata dalla pittura. Cito giusto al volo Hieronymus Bosch, un fiammingo, e tanti altri. Quindi la paura al servizio del potere, anche attraverso l'arte. Buon sabato, arrivederci a tutti, a risentirci. E ringraziamo Angelo per il contributo di Storia dell'Arte consueto sulla paura, accorgendoci che siamo alle 18.54 in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers e Tempus Fugit. Sì, quando ci si diverte, come mi sono lanciato Tempus Fugit con questi linguaggi forbiti, e quindi un saluto da Luciano Ligabue, state adesso ascoltando Radio Forte, questa è 100 Celle Avengers. Grazie Luciano. Liga. Ciao Luciano, grande assente di Sanremo, comunque ringraziamo. E io no, uno di quelli che ha fatto così un po' snob e troppo rock. E niente, quindi parlando della paura, perché comunque vogliamo chiudere col tema che ci ha fatto aprire, Principe, con coerenza e tracotanza. E niente, e quello che poi è stato, c'è stato tipo un accavallamento di Vivaldi con i 100 Celle Avengers. Grazie. E no, mi stavo, non lo so, ero ancora preso dalla storia dell'arte. E comunque sta di fatto che sulla paura abbiamo riflettuto anche in giovinezza, almeno al tempo del gruppo che vi sto per far ascoltare, cioè più o meno 2010, insomma era passato un... ma di chi sto parlando? No? Chissà. Il gruppo tuo? No, non è il gruppo mio, comunque è quella cosa che comunque importa a molti, e quindi l'acronimo è... Sono gli Happy Noise, esatto, sono gli Happy Noise, tutti l'avevano capito. Grazie. grandi gli Happy Noise, che si trovavano a trattare questo tema in un clima da, cioè, passato un primo decennio dopo l'11 settembre. Perché cos'è la paura? È anche un grande strumento di controllo. Quindi in quel momento storico il grande Bau Bau, il grande spauracchio era stato lanciato, almeno ci siamo vissuti anche quello, perché poi è una cosa ciclica, succede ogni volta che appunto la paura ci fa rinunciare alle libertà anche basilari, e quindi siamo fatti se eravamo fatti un bel decennio di quelli in cui Gabby non poteva portare i prodotti cosmetici in aereo, insomma tutta una paura che portava al controllo e portava gli Happy Noise alla riflessione. Poi cioè, dopo c'è stato pure il Covid, se ci fosse stato avremmo avuto anche quell'altro spunto di riflessione, sempre sulla paura, sempre su quel autoprivarsi delle proprie libertà pur di trovare rifugio in qualcosa, e questo il potere lo sfrutta spesso anche l'antichità, come diceva Angelo, ma nel presente. Quindi niente, con questo pezzo incredibile che si chiama, indovinate, La Paura, niente, lancio un pezzo che non è mai stato in realtà stampato, registrato, inedito. Non è mai uscito, è proprio un... si chiamava Il Cantiere Happy Noise la cartella. Niente, vi lasciamo così, quasi quasi. La Paura. La paura serve come l'aria, la paura è sempre necessaria, se il paziente poi non è sveglio, la paura funziona meglio. Te lo do io, motivo per aver paura, la facilità con cui la verità è raccontata come per la prima volta. E c'è chi se la beve capovolta. Cosa è la paura? La possibilità di agire in impunità per chi da sempre ti tiene sotto il suo controllo. E ad aiutarli sei tu, il consapevole tu. E ad aiutarli c'è il vizio non strano di mettere tutto sullo stesso piano. È solo un nemico che cerchiamo, ad ogni pulso reagiamo, basta calcare la mano su ogni quotidiano. Te lo dico io, cosa è la paura? La cosa che giustifica legittima ogni misura, la loro libertà. Cosa è la paura? Te la do io, la cura, la tua estraneità. Il mondo tutto giallo, nero, giallo e magenta. Te lo dico io, cosa mi spaventa di più? Digitalizzato anche il tuo dissenso. Quando fa paura e chi si dica tutto il contrario di tutto, è che la super storia raccontata dai televisori è molto meglio di quella di vinti e vincitori. Di guidare la storia, di pulire i pensieri, gli scuri sentieri su cui camminavamo fino a ieri. E pensa che mi terrorizza che la memoria non faccia più notizia. Cosa la paura? La cosa che giustifica legittima ogni misura, la loro libertà. Cosa la paura? Te la do io, la cura, la tua estraneità. E di nuovo in voce, giusto per salutarci, su Radio Forte 100 Celle Avengers. Questa puntata la troverete in podcast sul sito radioforte.net, alla sezione Radio Forte. Dite qualcosa così, no? Ci siamo divertiti, grazie. E quindi avete avuto forse paura, partirà voi? Anche una sigla a un certo punto, ma soltanto se lo vogliamo intensamente, perché comunque siamo soli. Quindi possiamo iniziare a fare qualcosa tipo le risate cattive. Sì, paura, barbara. Un finale di paura, tanto poi abbiamo la classica modalità post prodotta con la quale gli utenti potranno ascoltare la puntata di quest'oggi. Rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarbaro, rabarb Non capisco, non capisco. Comunque vi voglio bene, questo ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Sta per partire, sta per partire, non sta per oh partire. Oh mio Dio, sì. Cosa succede?